Cominciamo a scherzare, no? Allora si sta riballando, e Claudio mi ha detto, ho staccato tutto qua, c'entra il baracchino, ho staccato tutto, è una cosa di passaggio, non è niente di che, dai, riattacca che ce ne stiamo più in frequenza, cazzo, la padume d'usasse. Ma io già quando ti ho detto era già passato, infatti, vabbè, ma io c'avevo il sommergibile collegato, intanto è stagno quello, ho già arrivato, era tutto staccato, quello è alimentato a 24 volt con un alimentatore a parte, quindi il resto era tutto staccato, c'era solo quello lì attaccato. E mi ho fatto due chiacchiere con Gianni Capri e Claudio con quella radio lì, capito? Però era già passato il ciclone. Va bene, dai. Ehi. Già passa, piano piano, manco ce ne accorgiamo, mi arriva l'estate, poi ci lamentiamo, troppo caldo. Invece così va bene, ogni tanto un gavino ciclone oggi, un gavino ciclone domani e su che andiamo, vero Gianfra? La via di mezzo ci vuole. No, quale cosa non ci vogliamo proprio neanche in mezzo, perché chissà l'estate poi, perché se fa così l'inverno l'estate magari ci abbiamo 45 gradi all'ombra e soffriamo lo stesso. Ok, ho visto che sono le 9.30, già io vi devo lasciare che vado a cena. Buona serata, buon proseguimento a tutti e alle prossime. Riprendi Massimiliano. Sì, Gianfra, ciao, allora, buona serata, buon tutto. Ci sentiamo alle prossime, avanti Dani. Sì, ciao Gianfra, grazie della chiacchierata, già ci sentiamo un altro momento, ciao. Ciao, saluto il Gianfranco, ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianfra, ci sentiamo, buona cazzo. Avanti chi stocca. Avanti qua. No, Claudio deve essere Massimiliano, sì. Sì, sono qua, non c'è problema. Si sarà allontanato. Quando non vi rispondo vuol dire che mi chiama mia moglie e dovevo dare la pomatina. Gappa! Oh, yeah, mangio una pasta grimbata, faccio! E cosa ti mangiare tanto? A chi vuoi? Buona, è uscita, Mangio fatto la prima volta, la pasta al forno, una cosa, con un prosciutto in mezzo, ma è uscita troppo buona e mi sono grimbato. Bisogna regolarsi mangiando, sennò uiui. Ma lo sai cosa ha fatto Ilaria oggi a pranzo, Otto? Cosa ha fatto? Ha fatto le crepe, non so se tu le hai mai fatte o le sai fare. Ha fatto prima le crepe, poi le ha fatte nelle teglie, nella teglia grande, con besciamella, prosciutto cotto, formaggio fondente sopra, altro che pasta al forno. Mi c'era anche un pezzo per stanotte. Ed è buona già. Sono buone, no, ne ha lasciato due vuote di crepe, stanotte la facciamo con la Nutella. No, chi sa dire a Magnidu? Massimiliano, con la Nutella, non con quello che mi ha detto ieri sera, che a Ilaria ne sono scese le lacrime, la massa di Nevaria. Vabbè, cosa devi fare? No, a me non mi piace questi crepe, mi Ilaria se ne fa sempre con la Nutella, se ne fa lì, le fa anche buone, però a me non mi piace la vista. Neanche io ci vado matto, mia Anna le assaggia così, capito? Poi c'è ancora un po' di tiramisù, stamattina sono andato a trovare un amico e stava riempendo i cannoli siciliani, me ne ha dato giù, quindi mi sono buruguisci battanotti. Usci che palle, poi tutta la roba ne ha portate l'aria dal bar, guarda, lascia perdere. Neanche io ci vado matto, però così al forno, tipo pasta al forno, no? Sono molto buono, sono molto, molto squisite, sì, ben condite e tutto. Avanti, doppio rum. Io la mangiavo quando c'era quel chiosco a Pratavola, ti ricordi che c'era prima l'edicola in quel chiosco e poi hanno fatto per un po' di tempo d'estate avevano fatto proprio un posto dove facevano le crepe. Quella era la moglie di coso, di quello del ristorante. E lì qualche volta la Nutella l'ho mangiata, ma così col prosciutto no. Oh, col prosciutto, è tipo pasta al forno, puoi fare in mille maniere, no? Tu le prepari, le condisci tutto e poi le metti nella teglia, le ha messe, ne ha fatto quattro, infatti le ho avanzate una questa notte, con tutte condite e poi le metti al forno, con la besciamella. Però come quello, pasto normale, poi se vuoi mangiarla come dolce la puoi fare in tante maniere, con la Nutella, con la gorgonzola, con tutto lo vuoi fare, col miele, con tutto lo vuoi fare. Oh, Gaia da sola se le fa. Allora, si prepara tutto e se le fa da sola. Vedi, lei se le fa la mattina a volte, si prepara il condimento dalla sera e se le fa la mattina, capito, a colazione, quando lavora fa colazione al bar, non vuoi problema. Avanti, Antu. Giappa, a me con la Nutella non mi piace, una mucca a giubbegliardo mi ha passato un po' di sugo dalla pasta al forno, un po' di sugo e besciamella. La sera che ho fatto, allora a giubbegliardo ho fatto a giubbosso di Gigioni che si manni me, buona rete so, la giubbiorno l'ho fatta, li ho conditi, la giubbosso lo caccio in mezzo, contendoli, e poi li ho messi nella teglia, li ho messi, col formaggio, conditi col formaggio e tutto, nella teglia, la giubbosso la besciamella, un po' va via, di risotti letti va via, la giubbosso sopra, buona rete erane, conditi col dolce sardo me. Oh yeah. Va bene così. Invece di usare però gli gnocchetti, se usavi tu i tortiglioni, quelli grandi, ok? No? Li mettevi nella teglia, poi li mettevi tutto quel condimento che hai messo, formaggio grattugiato sopra, usciva tipo la pasta al forno, capito? Già va bene, non se c'è lampa nuda, no? Oh, vai già. No. E poi prima lo stesso non si buttava niente, quando ti ammazzava la pasta ci mettevi un po' di burro, la scaldavi, la mangiavi, avanti la prendi. Domani ti rampo io, gli gnocchetti mi al sugo, non so quanto sono buoni, alla sera, alla notte magari, le metti un goccio di olio crudo e le fai saltare in padella. Io farò ascoltare questa radio qua. Quale macio? Il coso? Il tornado? Ma si è fermato, a posto? Sì, che sta andando, sì. Lo stavo usando stasera, poco fa, un paio d'ore fa. Poi ho cambiato, ho fatto girare un po' tutti questi barracchini. Sì, allora ti faccio mandarmi. E c'avevo quelli qua. Non è che potevi scigliazzare, no? Ma sono scidi così buoni, tuoi scidi. Oh, ya! Yeah. Già va bene. Cosa vuoi sentire, Massimiliano? Il tornado? No, quello americano, quello verde. Insomma, agibile, ci metto un minuto, è già collegato, posso attaccare l'antenna, perché è l'ultimo che non ho connessione all'antenna, quindi devo staccare da qui e dal connettore e attaccarla lì. Esce molto bene, aspetta, lo faccio sentire, riprendi già. Da molto tempo, prima facciamo i burrubani, quando era duccio, buoniani, a mutica, l'acqua calda, poi lo mettevano in forno con formaggio, mozzarella, sugo, case muoveramo. La giamma nera, cosa là? Noi facevamo col pane la zuppa calorese, facevamo. Piano, piano vuole dire, aspetta. C'è Danilo, vedo il parcheggio. Ora, avanti, Dani! Ma vedendo gli ultimi ci difendi via, cari, magna. Zuppa calorese. Io fra un po', che ne sono? Meno 25, fra un po' io vado a mangiare. Ma vedi, fate entrare la cana. Attenzione, attenzione a tutte le unità mobili, seguire Massimiliano Bulldozer che ha perso la pala, cambio! Sì, questa è la radio. Si conferma, non credere che c'è una microcornetta, se no mi fai sollo. Sì, un po' citofonica la modulazione, però abbastanza presente, dai. Questa la mettiamo, la scheda a corte la mettiamo, Rocco. Ah, se si può pulire nuda, ma con il microfono di tavola si può pulire, ma ogni connettore di chi si manni militari. No, ma è curioso, Massimiliano, è da vedere funzionando così, parlando io, è allucinante, guarda. Veramente è una cosa micidiale, c'è anche lo smitter, c'è l'accordatore manuale mio anche, c'è l'accordatore, è un decametrico praticamente, c'è 25 watt, quanto ti sto arrivando? No, quasi 20, sì. 25 watt, c'è 9 bucce di giogano. E poi ogni tanto lo metto nella finestra a prendere aria, così se piove, capito? Non perde il vizio. Ci vede in guarnizione, pare la distanza di una macchina. Come è male? Se gli busco un microfono, quella è una bella radio, me lo sa. E come fai a attaccarglielo, Massimiliano? C'è il parlascolta, so, stavo parlando con Gianfranco per vedere che dritte. Mi ha detto di guardare che ci sono degli optional di questo Classman PCR 320 e vedere se ci sono degli optional, ma c'è ogni connettore, lo sai, antemano, a ghiera, si entra, poi si gira, la ghiera lo tiene bloccato, capito? E niente. Però non si può mettere colonnina esterna, quindi devi prendere dal connettore il filo che è dalla ricezione, è un casino, dove fa un lavoraccio. Ah, già andare così, cosa, intanto è giusto per usarlo, per farvelo sentire, dai, perché è funzionante. E c'è una bellissima ricezione, veramente una bellissima ricezione. Come trasmissione è una microcornetta, un po' citofonica, però l'importante è che va bene. Ascolta, fai una prova davanti a questa cornetta, non proprio dove vai a parlare, mettici una spugnettina, un pezzetto di qualcosa, un straccetto, che ti toglie un po' di questo citofonico. E le metto la cuffia antisoffio, già entra. Aspetta che provo. Prova, Gianni, riprendi. Ehi, Massimiliano, c'è così, non è tanto il microfono, è quello che riceve praticamente dalla cornetta per l'apparecchio lì, capito? E quello è il casino. Bisogna mettere una colonnina esterna, sicuramente, fargli un collegamento dall'interno e mettere la colonnina esterna. Lo so, quella ci sta bene qua, mia casa, perché io ho la casa verde militare. Però, cavolo, quello lì era fatto per la guerra, era fatto. Non doveva per l'uccido, doveva essere silenzioso, anche se no di cui era una bugirata. No, senza luci. Senza luci. Come fai a mettere luci, Antu? Cosa? No, non esiste, questo è un radio militare. Se vedono le luci ti pare da lontano. Massimiliano, gli ho messo la cuffia antisoffio davanti alla microcornetta, quella piccolina. E io cosa ho detto? Via. Vedi che ha cambiato un po' la modulazione, è più bella. Oh, più bella? Va bene, gliela lasciamo allora, intanto è piccolina, è anche bellina da vedere. Perché la punta è lunga, capito, della microcornetta. E praticamente ci sta giusta giusta. Va bene allora, va bene. Gianni, come mi ascolti tu, meglio? Ehi, asci un po' di la tolta di quella radio citofonica che aveva, ma va bene, se prima sembrava il telefono che usano in aereo, quando dicono uscita in sicurezza. Infatti ogni tanto mi attacco a tutte le unità, torre di controllo. Cazzo che cosa comica, però guarda, è veramente funzionante, c'è una ricezione da favola, nonostante io stia ascoltando con la microcornetta, credetemi che vi ascolto come un baracchino normale, benissimo. Come ho cambiato radio? Dani, tu come lo ascolti lì? A Claudio, la prima volta che non lo sento a bomba, bomba di radio, lo sento tranquillo, basso, calmo, però sempre segnale 9,20 abbondanti. Ehi, Adani, questo è un microfono normale, è una microcornetta, ma stiamo parlando di microfono normale. Questa bestiolina è un Classman militare PCR 320. C'ha 25 watt, c'ha le bande laterali, c'ha la M, è bello completo, l'accordatore manuale addirittura, capito? Chiaramente devi attaccare lo strumento esterno, ma io stazione non ho, quindi è staccato. Va bene, c'ha 5 minuti mi pare, non so, 1, 2, 3, 4, 5, se sono queste, se no deve averne 8, non lo so, c'ha un sacco di cose, c'ha io non tocco, già che forse danno. Avanti, Massimi, riprendi, cambio, qui a terra l'elicottero. Sì, bella radio, bella, forte, mi piace. E adesso le lasciamo questa cornetta, questa spugnettola, così va sicuramente un po' meno citofonica, sembra un microfono normale, dai, avanti ai già. Ehi, adesso ho trovato il giocattolo, la Giugatti. No, è curioso, è bella anche esteticamente, è molto bella da vedere, chi l'ha vista ha detto che è molto molto bella. Ha le dimensioni di un base normale, piatto, molto più basso, proprio come il pace. come il patch DX2003, infatti è sopra lui, lì hanno la stessa dimensione, solo che è tutto completamente strano, tutto pieno di viti, si vedono anche le guarnizioni, praticamente si vedono, io vado a vederle tutte perché da vicino vicino è stagno, tu lo metti fuori all'acqua e vasi nuda. Capito, va bene, poi c'ho tutto la sua, il suo equipaggiamento, il, la britella con tutto il, l'attacco, l'antenna esterna, l'alimentatore 24 volts da portare in giro, questo ti faccio ridere quest'estate, tu non ci credi, tanto rimane qua, quest'estate me la porto, la, la piazzo nuovamente nel, nel suo coso, la tracolla, me la porto al mare, la metto in spiaggia, antenna, attenzione a tutte le unità qua, spagliero dalla spiaggia. E dopo arrivi i carabinieri da risa, che militare. A me forse sono l'unico che la può tenere questa radio, perché io mi porto la patente, la licenza, è decametrico Gianni, è una radio amatoriale questa, ma a tutti gli effetti. Quindi mi porto la licenza, la patente a prescio e mi metto la faccia nel culo ai carabinieri. Sto scherzando. No niente, no. Non ti fanno niente perché tu la puoi detenere. Se acciappano a me magari mi rompono le scatole, ma a te non ti fanno niente. Ma poi perché? Allora devo venire a curare a barra, intanto già mi da doccia. Beh, dove ero pieno, non è, infatti la vernice per ferro esterno, vernice per esterno in ferro, capito? No, no, no, posso tenere, tenere, tranquillo, almeno a quello mi serve quel pezzo di carta che mi sono preso, ma la porto appresso e mi faccio veramente dei bei QSO, vedrai tu, questa estate non lo mando io, intanto mi andiamo a mari, se si può andare, non lo so. Tutte le volte chi sta leggendo il giornale, chi sta messaggiando, chi sta con l'auricolare, chi sta con quello, sai, io mi pongo un macchino, adios, arrivederci, buon viaggio, perché quell'antenna che c'è è 0,30, quindi se non ce ne sono 27 me ne andrò in HF, non sarà un problema. Vai Massimino, qui l'atterraggio pronto, pronto. Aspetta, ti voglio vedere sotto l'ombrellone con questa antenna che fa vedere la radio. E ti da gente ti posso ridere, ti posso ridere, vedrai tu che ti faccio ridere quest'anno. Faccio tanti di quei filmini, li metto su YouTube proprio, lo dico in aria ma li faccio mettere su YouTube, se avremo due risati. Guarda che un tavolino potresti usare. No, no, a Britella, c'ha il suo, c'ha il portacoso, capito? Io a me me l'ho fatta completa con tutto l'equipaggiamento esterno, praticamente c'ha il seggiolino che tu ti metti dietro le spalle con le britelle, gli attacchi, l'alimentatore suo da 24 volte che io l'ho staccato dentro l'armadio, l'antenna e tutto, c'ha tutto il... Poi te lo stacchi dalla, dalle spalle e lo appoggi per terra perché c'è la base per appoggiare per terra. Come se è militare, come la tenevano i militari? A spalle la tenevano, mica come la tenevano. Questa è del 74. Con le pinne fucile doppi ali. Musica allegra nei bu. Ma ci vuole anche il fucile, le pinne e la bretella pure. Vai Massimiliano. Che sciuga, va bene, va bene, va bene, aspetta ti voglio vedere che questa cornetta è male, sto pronto radio, radio Sparviero, ma intendi no chi? Ma chi sei tu Arturo che sta mettendo la musica? Ah vabbè, no, se sei tu già va bene, beh, non c'è problema. No, cosa sembra che stai telefonando Massimiliano, capito? E l'aria si fa dei risati quando mi è entrata là, che è andata in bagno e ho detto no papà, io finisci la che. Certo che non l'hai visto, No Dani, avanti. No, io lo stesso, appena mi prendo la patente, la radio in spiaggia mi arrivo. Se non mi porto in vena ogni busta. Ma ci vai Dani, a maggio so gli esami? Per adesso sono tutti quanti online, là. Infatti fra un po' incominciamo con le prove, con le lezioni e tutto quanto. Capo, ma ti presenta qualche associazione o lo fai da solo? No, sono con Era Sassari. Era Sassari, che so che tu Era Sassari? Da 22, poi c'è anche Era Cagliari, poi l'altro era Foggia, mi sa, Foggia. No, No, dai, tu stai confondendo persone, io non ho amici, no, io ho solo conoscenti, persone che conosco, non ho amici, io non ti preoccupare, non sono mai appartenuto io all'era Sassari, dell'era che furo sono io, però non sono mai appartenuto, una volta solo sono stato all'Ari di Sassari, poi basta. Poi per il resto nulla tenente, nulla facente, per i fatti miei, quindi non so manco di cosa stai parlando, a quale associazione appartieni, perché sinceramente non li conosco. Una volta che c'è la patente, claro, se sono tutti quanti amici, diciamo, ora. No, comunque adesso ti dico chi sono esattamente. Era Corso Radio, e poche parole sono con... era Sassari, IQ0XK, XP. Ah, IQ0XP tu sei con Antonio Solinas, con Jack Shaw. Loro sono con Coros, però anche loro sono nella stessa associazione. Io sono con Francesco, Alessandro, Vanni, con loro sono. Ora Caresi, sì, Bedalvini è fatto, già va bene. Non sono amici miei, li conosco perfettamente, bravissime persone, tutto quello che vuoi, ma io non sono amici miei, tutto qua, e chiudo, ok? Comunque, va bene, fai quello che devi fare e vedrai che poi già ti troverai bene, non c'è problema, auguri, avanti Massimiliano. Sì, ma non ho capito questa cosa, cioè devi studiare da casa, così? Esami online ci sono, non le fanno più, online. Tu fai tutto la prassi e poi fai l'esame online, ti interrogano online, come che sia c'è una commissione e ti interrogano online. Che succede a Biburueo così? Boh, ero libero davanti. Non penso proprio, è tutto un sistema, poi ce lo racconterà Danilo quando sarà, ma me l'hanno già detto come avviene quell'esame, non puoi fuggino, o ne sai o non ne sai. No, perché ti danno tutta quanta roba a spalti, tipo cos'è una resistenza, poi tutto un tratto cos'è una modulazione, palle varie. E sono tutte quante domande che col libro non ce la fai mai a riprenderle subito, devi saperle subito, devi rispondere subito, non è che ti fanno aspettare cos'è una resistenza, tu devi cercarti il foglio della resistenza, cos'è? No, non è così, devi essere sciolto, veloce. Le risposte sono così veloci. Io lo so, sì, ma l'ho già detto, domanda e risposta, poi già sarà Mazzetta che sa commissione, ma sa bene cosa inventare. Comunque, Dani, fallo, se sei pronto e sei all'altezza di poter fare una cosa del genere, fallo. Certo che è una grande rottura di balle, però già va bene. Avanti, doppio, che io cambio radio, che mi sono qui a rompere due balle, dini che c'è cosa in mano, io. Doppio non deve essere che è andato a telefono, buio in bagno. Vai, bombolo. Sì, cappa, perché... Ah, già carina però, dai, come radio. Pare un sommergibile, pare. Che bello, va. E sono pezzi unici da tenere a casa quelli. Poi è funzionante, ora di là tutti. Va bene, va bene. Opa, chi c'è la merda di amatore? È un po' difficile, è difficile ma non è neanche facile. Dai, sono tornato con questa che mi viene meglio a modulare, anche per quella là vicino alla finestra. E mi viene male, dai. Ok, comunque già l'impronta funziona. Sì, Anto, è sempre un esame di stato, mi ha tutti gli effetti, quindi quando tu vai a dare un esame di stato per il diploma e c'è una commissione, ti interroga, adesso stanno facendo così gli esami, tutti online sono, e quindi hanno adottato anche loro questo sistema, ma ben vengano queste cose, KK. Io comunque Dani, fammi un'offerta perché la sto vendendo, sia la patente che la licenza. Il nome come facciamo a cambiarlo? Spiegamelo. Fai solo il cambio nominativo, cosa c'entra? Io ti vendo la patente, la licenza, tu chiedi il cambio nominativo. Invece di IS0 DFB ti fai chiamare IS0 Lalla. Già si potrebbe fare anche così. Ma preferisco non rischiare così. Preferisco più prendermela da solo tranquillo. e non rischiare niente. Vendi a me la vendi, ti pongo ISB, fiaggo di fava. Quindi S0, fiaggo di vava, FD, F. Va bene, non ve lo attivo S0, FDF. Va bene, fiaggo di vava. Non si può fare, no, da lì, se no me l'avevo venduta già da qualche anno, capito? La lasciamo lì oramai. Tanto l'ho già pagato manco di tranquillo, quindi non so manco se ne parlo, perciò. Oramai siamo cipito e va benissimo, alla grande, con tutto rispetto, attenzione da lì, con tutto rispetto, massimo rispetto per gli animatori e per chi fate metà amatoriale. A me non interessa, quindi ho preso la decisione e sono più che soddisfatto e contento. Avanti Massimi. Io ormai ce l'hai tirata bene, no, cosa la fai? Non ce l'hanno messo 5 euro all'anno. Però non so, voi le pagate comunque, vero qua? Pagate come? E dico, come radioamatori voi comunque la patente all'anno la pagate, non è più come la tassa civile. No, noi è una tassa di concessione governativa, devi pagarla per forza. Capito? Però io ancora non ho pagato, non lo so. Tanto non c'ho niente Massimiliano, non mi interessa più, capito? Però non me la faccio scadere perché... Vedi, adesso magari voglio farmi un giretto con quella radio che ho militare e se non la patente di licenza non la puoi portare fuori per fare delle prove, perché noi con quella, la licenza patente possiamo usare qualsiasi cosa, fare prove, eccetera, anche per strada. Io mi metto un tavolino, mi siedo, piazza le segni, con quella mi metto a parlare, nessuno mi sta, ne può dire niente perché sto facendo delle prove, non sono un animatore, capito? Tu non lo vuoi vada GB, così, per quello non me la faccio scadere, però come attività lo sai benissimo, non è che non ho più niente, ho venduto tutto, ho tolto tutto e va bene così. Sempre, ripeto, ribadisco per chi è l'ascolto, perché c'è qualcuno che ogni tanto registra e manda le registrazioni a quell'altro, no? Sappiatelo che io so tutto, quindi sto dicendo, io ho preso una decisione e sono più che a posto e non tornerò più indietro, però ho il massimo rispetto per i radioamatori e per chi fa attività amatoriale, perché è un grande lavoro e una grande passione, altro non posso dire, io la penso per me e gli altri la pensano per loro. Quanto paghi all'anno? Scusa se te l'ho chiesto. 5 euro all'anno si paga. Ah, così poco paghi? Sì, 5 euro all'anno senza chiaramente, se poi ti iscrivi alle associazioni, allora già, che sono 70-80 euro all'anno. Io non ero iscritto a nessuna parte, quindi ho sempre pagato 5 euro. Ah, sì. Sì, perché per le associazioni paghi anche la parte loro. E si conferma, e si conferma. Va bene, va bene. Avanti Gianni doppio Roma. Ah, fa cimini, ma magari che tomacco. Perché? Uno era Drudiendi. Senti Drudiendi. E ho sentito un rumore. Un rumore. Magari questo è quello che mi che registra la mia voce e poi la manda ai colleghi di Olbia. Miserabile, non si altro. Olbia! Vabbè, sono problemi miei, non ti preoccupare. Si è creduto e convinto di farmi fesso, già non so gusci fesso, ma 60 anni. Lasciamo perdere. Comunque, occhio come parlate. Dani, non mi fare altre domande su quella cosa lì, perché ti giuro, non mi interessa più niente e non voglio saperne più niente. Io sono un CB come voi e da CB voglio vivere e divertirmi. Avanti, riprendi e fai girare. Una domanda mi hai fatto e una risposta ti ho dato. Basta così, dai, io adesso chiudo che vado a mangiare, dai. Già ci sentiamo e buonasera a tutti, dai. Ciao Cla, già ci sentiamo, non ti arrabbiare, che le orecchie sono tante ma le bocche sono poche, ricordatelo. Il problema, Dani, ha detto bene, che le orecchie sono tante, capito? Se avessero avuto la faccia di presentarsi di persona, stai pur certo che tutto quello che dicono alle mie spalle non l'avrebbero mai detto. A chi ne avevo bugato luci subito, è tagliata la ringa, con le mani, non con la volbizza, no? Ce n'è un bel miserabile, Dani, stai attento a come ti muovi sempre, sei una bravissima persona. Avanti Massimiliano, ciao, un abbraccio, grazie di essere entrato, cordialità e saluti, buon fine domenica, avanti Massimiliano. Ok, va bene, sì, anch'io mi allontano un secondo, io mi allontano lo stesso, claro, al limite non so se riprendo dopo, vediamo là, che facciamo con Danilo, mettiamo di giù, forse mi serve una mano. Ok, ciao Danilo, buona serata, buona carica e ci sentiamo le prossime. Vai, riprendi, io claro, aspetto il finalino, poi mi stacco là. Ehi, che azione, mi sono anche accorto che sono le 8, minchia, devo andare a portare a Filippo, che l'aria è in pigiama, e io invece sono in tutta, quindi scendo io a portarlo a fare la piscia. Dai, ciao Massimi, già ci aggiorniamo, ci sentiamo, dai, lascio tutto acceso qua, avanti, Anto. Ciao Massimilia, ce la risentiamo, ok. Ciao Massimiliano, ciao Danilo, dai, anch'io sto andando a portare il cane, Claudio. Sì, già, e sono anche accorto, ma sono le 8. Io ero al telefono perché stavo ordinando la pizza per stasera, quindi ero al telefono, dai, ci porto il cane che alle 9 meno 20 mi portava la pizza. Ehi, d'accordo, dai, allora ci aggiorniamo dopo a tutti, dai. Ya, lascio tutto acceso qua e magari ci sentiamo più tardi. Ya, ciao ancora, ho già la... Buongiorno. Grazie, è già acceso? Mi sto preparando, Anto, ci sentiamo dopo. Ehi, ya. Antonio Perivella. Oi! E beh! Ecco qua! E io bisogna far andare anche queste, se no poi ci fa sempre duro baracchino. Anche queste fino a quando ci sono bisogna farle andare. E beh, non tocco. E io ho sistemato l'antenna a partenza. Poco fa. Sta posto adesso. Cosa hai detto? Ci chiamato l'antenna sul tetto, quindi era in camera da letto l'antenna? No, sono salito da sai, la torre 5 con questo falsetto e l'ho sistemata, ho attaccato il pezzo che era piegato, poi l'ho buttato in terra, si è spaventato su, ma pensavo che fosse, che fosse caduto in terra più che altro. Dopodiché mi ha visto il cazzo tutto quanto in piedi, io pensavo che avessi fossi caduto, mi ha detto, incazzata. Una puntura bisogna fare, diciamo, che sbaccare il dai, riprendi anche tu. Cappa, ma non è che te la fare di diossolo? Il palo lì di sopra più che altro, quindi da lì ho smollato un pochettino le gaffette e sono passato delle, sono sceso un pochettino più giù l'antenna più che altro, poi ho preso e ho staccato il pezzo di nel palo con lo fine, l'ho piegato e basta, non ho fatto altro. Dopodiché l'ho buttato in terrazzino e pensava sembrava che fosse caduto. Cazzo, ma che l'altro capo di lui, ma tu sei malato, tu sei caduto, hai giocato, ma vai a panculo, detto, tu quanto sei, mica sono caduto, detto, sono già sono vivo, non ti avevo risposto diretto a questo punto. Ma perché ti sei inchinato, ti sei? No, non mi sono inchinato, grazie a Dio, e cazzo, ci mancherebbe, non mi inchino per pensare un'antenna qua, grazie a Dio. Ho sistemato la mantova, l'ho girata, adesso è a posto. Cappa, ma poche volte c'è? Perché non sei forte come... Cioè, qualche punto l'hai perso, dai, però già va bene lo stesso. La verità, pensavo che dovevi uscire bene, perlomeno. Se mi stavo avuto qualche bico da leggere, la verità. No, già sì, sul rosso sempre, però a confronto a Claudio sei un pochettino di meno tu. Ma poca roba però, non è poco poco. Ma grazie a poca potenza. Beh, 10 watt sono sempre, vabbè, 10-15 non di più. Io sono 10 watt che picchia a 20, ma sul parlato però 20 watt, di portante bianca io ho 10 watt. Cavolo, vabbè, c'è un pochettino più di potenza, là. Già si vede. Boh, non lo so, io sto andando con la 140 che non è che ci sia molta differenza. Va bene, ok. Scappa. Okra, quando è, ti faccio vedere una cosa che mi ha proposto una persona, e poi mi dici tu un pochettino, va? Ok. Ma fare non c'è problema. Cappa, l'hai vista? Aspetta che ti rispondo, questa la conosco, aspetta che ti rispondo. Non dire niente in radio però, quando parli con me, tu parla solo con me. Ok. No, vabbè, una cosa. Aspetta un attimo. Io sono qua, non ti preoccupare, ragazzi, io sono qua, quando vuoi entra. Chi è? Avanti, buonasera. Ciao Pomponio, come va? Tutto a retto, sono, dimmi tutto, qual è il problema? Tutto a retto, sì, allora sì, ci possiamo vedere anche subito. Allora siamo tutti qua, già. Sto facendo cosa? Io non c'è problema, che fai? No, qui non c'è problema. Questa è la modulazione con un microfono della Midrand, di quelli microfoni che si attaccavano ai portatili, con un circuito fai da te di preamplificazione, è venuta fuori questa storia. Com'è? Chiappa! Magari. Vabbè, ieri facevi schifo, dico, oggi stai uscendo bene come Mario, se stai usando quel tipo di apparato, sei a posto, sei tranquillo. Quale cosa sto usando? Ti ho mandato la foto. A me no, agli altri sì. Papà, tu sei o no? Reato, aspetta, ti rimando la foto di quello che sto usando. Senti che modulazione con questo circuittino, kappa. Sto guardando, bello. Andiamo bene già. Sto usando quel circuittino che ti ho mandato in foto, con batteria da 9 volt e un microfono normalissimo della Midrand. Va bene, non è male. Allora, vediamo un po', Mikey Gain era basso oppure Mikey Gain ora a 6, 7, prova. Oh, scusatemi che io sono rientrato verso la porta del cane, adesso vado a cenare, ciao anche a Luca, non lascio il microfono, Luca, lascia stare quello lì che va molto meglio, non mettere quel circuito da nessuna parte, se ti trovi un'altra cassa più grande, manuale, da palmo, ce lo butti dentro, ma quel microfono è eccezionale. No, Tino, mi ha portato quel microfono là, capito, poco fa, adesso li collego questo circuitino a quel microfono, vediamo un po' come esce anche quello di microfono, vabbè, mi metto a fare, sono un po' chiudete, non mi potete dare controlli, ciao. No, vado a cenare, poi io e Antonio ci tratteniamo sempre un'oretta dopo cena, capito, non c'è problema. Ci aggiorniamo dopo, ragazzi. E io, a dopo. Avanti a tu. Ehi, capa, ciao, grazie, sentiamo. Ammazza che devi fare, ma tu sei buon pende. Io? E allora, all'UDB mi sei tu pende. No, ho sempre la stessa potenza, a tu. No, adesso te lo dico subito. Allora, 7 watt. Vabbè, se fischio, se parlo se ne va oltre i 25. Sì, ma che microfono stai usando? Ah, questo è sempre quello là, quello della Midland. Adesso faccio i collegamenti a quello che mi hai dato tu. Perché hai un... non so che ci sia un ruote, ciao a tutti, sono entrato così, ho alzato il volume, perché ho visto che c'è la gente. Sembra che hai tipo una radio disturbata da un soffio. Ora parlando da più lontano, vabbè, il macchinino a 7 della radio. Così va bene, vuol dire che stai facendo aria, tipo quando scorreggi, no? Capito? Ciao, tanto dai, che sto cucinando il riso per quelle belve, che anche questo mi tocca fare a notte. Frigge con la macchina? No, quello ho messo in freezer, ci penso io l'altro giorno a selezionarli. Sto facendo il riso ai cagnolini. Ci vuole, va bene, dai, io mi assento, rimango in ascolto, che faccio, collego col microfono che mi hai dato tutti, dai, ci sentiamo tra un po', ma tu. Ehi, a K, ma evidentemente sei favorevole per me, Lu. Cavolo, sei tu che il DB del più 30, cioè sei proprio a fondo scala, sei un bel forte, sei qua. C'è lo stesso segnale di Natalino che c'ho vicino. Mamma, sette watt precisi precisi, 7 watt. Sì, qua fai 9,38 con picchi positivi a 9,42. C'è dei picchi positivi, c'è radio, una cosa allucinante. Me ne accorgo dal watt, metterò. Perché 7 watt devo mettere in scala 200, perché sennò se ne va oltre il 20 e devo mettere in scala 200. Sfischiato va da 10 a 40. Va bene, sono così anch'io, dai, ci sentiamo dopo, già ce l'ho acceso. E dopo, ciao ciao, che sto facendo anch'io. E a capa. Pomponio! Dimmi tutto. Ehi, cosa vendi? Sto mandando un messaggio alla... vabbè, io sono la Baltracca, più che altro. A chi? Con la Baltracca, con le basulti, con le si è attaccata a puffa, più che altro. Ha trovato di due a ciappi, sa gente. Beh, lo sai, no, come... c'è la amicizia, poi sono tutti quanti francesi, poi sono tutti quanti hanno problemi di primo marito, eccetera, eccetera, capito? Dopodiché ti mettono su WhatsApp, dopodiché si è fregato, ti chiedono su più. Infatti io l'ho fregato prima, dietro, su che te puppa. Carità, che gente, ga. Uiuia. E rotto di fatti. Ma è così. Che devo fare? Mi è andato subito, mi è andato. Ma quel secchione là, che conosciamo noi. Cioè, ma quando mai ci va a cascare? Prima l'ha convinto, gli ha fatto guardare da voi. Da voi pure a ridinà, ma per carità, dai. E io so anch'io quello. Perché per lui, no? A me non mi è capitato la verità, che è tanto se mi chiede una cosa del genere, dice, oh, fotografie, ma tu sei scemo, sì. Non esiste, almeno che non mi mandano fotografie di cosa, quelle vecchie, che c'è un cavallo, quello che è, allora non esiste, capito, non ti posso fare niente. Roba da matti, Antonio, roba da matti. Io a dare taiti bassone, no? Non è il massimo qua. Lo so, è proprio così. Senta, adesso questo periodo lo sai, no? Lockdown, questo periodo è pieno di questa roba qua. Sono tutti depravati, di si buccarotti. Vabbè che non se ne è mai dedicato una femmina, lasciamo perdere, là, una cosa seria, purtroppo. Ci sono persone che sono così, ma non ti innandica. E a volte, visto, cosa ti posso dire? In America fanno così, in America è cosa... gire, roba del genere, ti conosco, poi bisogna prendere tutto, e tutto il giro c'è da fare, cosa è che cosa, in chi si che proprio in Brasile, in Brasile appoggiano un muro e sono andenti, in chi per diversa la storia. E l'italiano è disgraziato un po', e ha qualche altro posto che vive così, ha esperiente, ma cazzo, non va né gabbo, non va né. Da altre parti sono anche più aperti, la verità, come mentalità. Sì, io lo so già per quello, ma è così come si acqua, però piano piano va bene. Brasil, tarararararara. Questa è l'87, Antonè. Stanno bene, la verità. Siete sentito bene, tu mi senti bene a me? È un po' basso c'è di modulazione, con le BB4 sono io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vabbè, aspetta. Aspetta con l'altro microfono, 2 minuti. Questo è quello che montava la 87, quindi 2 minuti. Attacco l'altro. Ehi, approvo l'altro, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. Va bene quello. Esce bene, sì. Cappa se esce bene, va benissimo. Meglio così, sto contento, là. Cappa. C'è una cannonata, esce. Però capo, ho dovuto, Antonè, separare la situazione qua, ho dovuto separare. La baracchina ho dovuto mettere su un alimentatore, e il coso ho dovuto mettere su un altro alimentatore perché si spegneva. Non capisco perché, invece io ho l'altro collegato in parallelo e non si spegne. Non capisco perché. Qualche problema c'è, senz'altro. Quindi lasciano così come sta facendo adesso, che è meglio. Quindi voi c'è una qualche perdita di, non so, tensione, qualcosa del genere, quello che è. Hai capito? Lasciano così comunque che sia, quindi, come è messo adesso, e sei tranquillo. Già così già va bene. Ah, il problema sai cos'è? Allora si attacca l'amplificatore cioè li attacco tutti e due, lineare e amplificatore, si suda il San Radio. L'altro apparecchio invece non lo fa questo difetto qua. Se li posso attaccare tutti e due insieme, c'è la mossettiera e attacco. Non so come riuscite a comprendere per cosa fate così. Con tutti e due alimentatori switching, Li farò separati più che altro. Si fa tutto in uno, è un casino, capito? Lo fa anche a me. Scappa. Sì. Come si dice? Fa così, fa. L'altro invece non li fa di niente. L'altro funziona in tutti e due e non li fa niente. Nella stessa mossettiera. Chissà cosa capo è. Devo sempre gli alimentatori per funzionare bene. Ah, non so cosa dirti. Magari sono cazzata. Con il microfono, visto hai? A un certo punto bastava fare un cambiare la capsula, quindi il motivo l'ha tolto. Il discorso è quello lì. È stata una cazzata. Saluti. E infatti, vabbè. Quando vi passerò il teatro con il microfono? Domani? Se ce la faccio domani, Antone, se ce la faccio. Con un ritiro. Capito. Vediamo un po'. Va bene, ok, non c'è problema. Aspetta 2 secondi che vedo una cosa, sto arrivando subito. 2 minuti. Capa. Allora, Antonio. E avanti. Allora, questo è un altro microfono, sempre a palmare, sempre un microfono normale, con quel circuitino, vedi un po' che appa. E a pompa già. Qua è peggio dell'altro. Che era... Peggio. Peggio. Trump microfono, sembra che abbia iniziato l'azione. Aspetta che abbasso allora i trimmer, scusa, sto così, sto parlando lontano, ma volendo si può anche abbassare. Boh, lascia così. Allora, vabbè, non ne ho toccato di trim, distanza così 15 cm, gatto? La radio normale, lui. Ah, non amplifica? No. Che strano. Che strano. Prova a abbassare tutto e poi aumentare, però mantieni sempre la distanza del mic e della bocca. Sì. Prendo il cacciavettino. Io non la sento bene la radio, è bella, comprensibile. Se ti avvicini troppo sembra che vai in saturazione. Guarda, da così, fa così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per me non ha cambiato niente. Guarda così. Non sta abbassando così, sì? Appena appena, leggero. E questo invece, 1, 2, 3, guarda adesso. Guarda, lui, se è impercettibile la cosa. Che strano. Aspetta, provo a invertire i fili. E magari sono quelli, aspetta. Ma la radio è bella, insomma, non è... è appena praticata, però non è prepotente, capito? Va più sul normale, è comprensibilissima, solo che quando te l'attacchi troppo alla bocca è come che hai un lineare e vai in saturazione, capito? Magari è troppo forte, magari. Ma è un microfono, un CTE, microfono, sono i classici microfoni che si utilizzano nella radio con effetto accolto, capito? Davvero? No, io mi ricordo sempre il microfono normale, mi ricordo io. Dipende che microfono normale dici tu, perché io il normale intendo anche quello della Midland, l'ho avuto nelle radio elaborate. Io ce ne ho avuto due di radio elaborate, ma uscivo col microfono normale, uscivo. Ma quale, quello della CTE, quello nero, com'è? E quella roba lì. Quella roba lì. Se della CTE è normale, però ti fa tipo la radio amplificata, capito? Allora, il microfono era normale, la potenza la dava, la radio c'aveva il doppio modulatore, diciamo, quel tipo di radio lì, ma spingeva come una bestia a me. Qualcuno l'ha provato, si è asciugato, quella che c'avevo io. C'avevo l'87 che era una gannonata. Vabbè. Sì, vabbè, solitamente utilizzano questi microfoni normali, giustamente, perché sono per male la radio. Sì, quello lì c'avevo. Però io c'avevo, si chiamava, cavolo, usciva corposa la modulazione. Non me lo ricordo adesso come si chiama, era un po' tozzo come microfono, non era un CTE, rimaneva bello tozzo, ma pompava a me un guitar radio, cavolo. Andare. Aspettiamo cosa esce fuori con Luca, che sto facendo quello, ce lo voglio in ascolto sempre. Ehi, cappa. Papu! Ma perché non si è gonfiato ancora, Pompone? Penso che era già gonfio. Non lo sonno. L'ultima volta già aveva ingrassato, ma... No, si è gonfiato l'aria. Vabbè, io c'è la birra, deve essere. Cucciù. Allora non ti sei gonfiato ancora? No, grazie a Dio no. Dimmi tutto. No, pensavo che eri gonfio, per quello stavo chiamando, non mi hai risposto, ho detto guarda, adesso sei gonfiato. No, peccato, era freddore, cazzo, va a far culo, cazzo. Il freddo che cazzo l'ha fatto, cazzo, a questo punto. Andare. Che volevi dire, Gartone? Tutto bene in casa, sì? Sì, perlomeno sì, fino adesso. Dopodiché adesso vediamo. si vedrà domani a un certo punto. No, vabbè, io parlo con la tua compagna, si è ripresa. Sì, si è ripresa, io voglio essere ripresa. Ma te cogli un amme più che altro, quindi figurati tu. Va bene, devo spostare, sono qua. E te lo sto dicendo. A un certo punto, guarda, sono cercato, si è ripresa, guarda, sono cercato di lasciarla qua e me ne vado io. E vabbè, oh, ma ce l'hai, te la devi dire come te. Non credo proprio, guarda. Ognuno, quindi il suo peccato ci fa quello. Io non so cosa fai, non penso che abbia il coraggio di cui si raffurano. Ancora no, ma secondo me piano piano. E vabbè, è fatta così, Antone. Purtroppo, ho ti capo in miscentale, andate di soldi, o qualcun altro. Non c'è meno rompiscatole. Non sai com'è. Purtroppo è così. A un certo punto. Oh, iaia, siamo a posto già. E cosa vuoi fare? È fatta così. Ma che ci vuoi fare? Sì, è care. Sono sempre lì. Adesso è toccato qualcosa, lui. Però adesso ti, ma meglio o peggio? Meglio, meglio. Sempre sul microfono pesa, falso, come ti diciamo. Ma vabbè, va meglio, va meglio. Stiamo riconoscendolo. Pumpendia. E va bene. Io, E care chi? Allora come te già, che sembra una pazziana e mi dà la scuola guida. E boh, sono già niente. Sono già godeccio, ho mangiato troppo, mai più così. Mi scinta così buona, la prima volta che la faccio. Ho fatto la pasta al forno col prosciutto. Buona redda e scinta. E chi sono di tu? Sei curiosi. È vero, chi sono di tu? A me non ne mangio mezza, io mangio roba buona a me. Puntella, Luca, puntella che va bene. Non tocca niente però. No. A tu è normale, l'hai fatto a tu, e cosa dici che ti ci damara? Aspetta a me, e pure mi vanto di che faccio io, l'altri. No, ma io la marcia la faccio buona, è la verità. Mi impegno molto a fare questa cosa qua. Siamo noi che dobbiamo giudicare, se a noi non ce la passa già, tu mi dici ti piace, no ti? Io facciamo la pizza, una pizza di quale vuole, come si deve, come fai tu Luca? Poi ce ne vediamo in quattro. Oh, va bene, devo lontanare la prima della radio di nuovo, vai. Fai, va bene, Gattore, vabbè la pizza, una bottiglia d'acqua vite e andiamo a go-go. A voi che ci divertiamo. Cioè frega sei a noi, c'è l'ancione rosso, quello che è. Basta mangiarci la pizza. Organizzare non c'è problema. Mi pare che tu come professione eri pizzaiolo, vero Luca? Che è la pizzaiola e panettiere gara. Sì, organizziamo l'Antonio, tanto Antonio va pure la musica. C'è un problema. Ma? È che non ci siamo. Bella carriera. Piccola la mia casa. E a voglia da me. Ci stiamo tutti, ci stiamo. Qual è il problema? Ma tu cos'hai sul palco per dormire? Ehi, come quello di mio figlio, giù c'è la cucina, ingresso, cucina, bagnetto e su c'è il sul palco dove c'è il letto. Dica su c'è appartamenti di antena, no? Lo conosco. E fianco alla cosa mi. All'agenzia funebre, Graziano. Forse ho capito dov'è. Attaccato all'agenzia funebre aveva un cancelletto, perché c'ha due portoni, due ingressi, dai. C'è un cancello di ferro e subito dopo a mezzo metro per il portoncino di casa. Sì, c'è la vizzina in onga, poche basse. E se te lo sto dicendo? Se sto dicendo, è lì via d'uomo. Che non ha passione come te, se no mi abbia incullato tutto i nonchi. Mi abbia incullato pure tutta Eddo però, eh. Eh sì. Ne ho visto un'altra, 260, lo stesso grande.